Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Sta finendo agosto, Chiara. Purtroppo sì, però noi siamo sempre qui, siamo stati sempre qui e saremo sempre qui. Partiamo raccontando la scienza in valigia e raccontare in particolare la scienza del rientro, quello che le guide turistiche non ti dicono. Che sta succedendo adesso. Poi è uscita una nuova rivista di matematica per tutti e parleremo in particolare di un suo articolo, L'algoritmo del gossip. E poi finiamo raccontando lo stretto rapporto che c'è tra la psicanalisi e il cinema. L'analista al cinema. Via. Molti di voi ascoltatori saranno in procinto di tornare dalle ferie, alcuni purtroppo saranno già tornati, qualcuno per carità starà anche partendo. Per quello abbiamo deciso di raccontarvi la scienza in valigia, che è l'ultima fatica di Jacopo Pasotti. Intanto ciao, bentornato Jacopo. Ciao, grazie, saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, mi permetto di darti del tu perché sei un amico, un collega, un bravissimo giornalista scientifico e sei stato già nostro ospite l'anno scorso con la tua scienza in vetta. Quest'anno invece ti sei concentrato sulla valigia, nel senso che la scienza dei viaggi è davvero molto estesa e quasi infinita. Però tu qui ovviamente fai dei focus, racconti un sacco di cose anche dal punto di vista geografico, però io se sei d'accordo vorrei concentrarmi sul rientro, perché purtroppo questo è il periodo un po' del ritorno dalle vacanze. Quindi subito volevo chiederti, ma scusa Jacopo, perché il viaggio di ritorno sembra o è sempre più breve rispetto a quello di partenza? Beh, dunque, il viaggio di ritorno non è necessariamente più breve di quello che avete compiuto durante della partenza, insomma. Potrebbe anzi essere proprio della stessa durata o della stessa lunghezza in chilometri. È una questione di percezione, di come noi viviamo il viaggio. Ci si è chiesti a lungo come mai ci sia questo sentimento, diciamo, diffuso per cui il ritorno sembra sempre più lungo della partenza, del viaggio di andata, insomma, verso una destinazione. E si è sempre pensato che questo fosse dovuto al fatto che in un certo senso già conosciamo il tragitto, conosciamo il percorso, abbiamo già compiuto il viaggio andando, nel ritornare, insomma, ripercorrere la stessa strada ci fa pensare che sia più, in un certo senso, più lungo. Invece uno studio che hanno fatto degli studiosi in Olanda ha dimostrato che anche chi tornava in un viaggio circolare, insomma, per cui non seguendo lo stesso percorso che aveva fatto all'andata, aveva una percezione, credeva che il viaggio di ritorno fosse più lungo sostanzialmente. Insomma, attraverso diversi studi di psicologia e percezione, appunto, gli studiosi hanno poi pensano che questo sia dovuto al fatto che le aspettative, l'ansia o forse anche il desiderio di viaggiare, la preparazione, l'andata ci fa vivere già il viaggio di andata come un'esperienza così che ci cattura, che ci affascina, che ci comprende già come fosse il viaggio stesso. E la viviamo più intensamente. Da passare come, insomma, i bei momenti passano velocemente, questo lo diciamo tutti quanti, no? Quindi è più una questione psicologica, se vogliamo. Senti, invece, se noi fossimo partiti in aereo, oppure fossimo partiti in treno, oppure in macchina, secondo te qual è il mezzo più inquinante e una volta rientrati per compensare a tutta la CO2, insomma, che abbiamo consumato, che cosa dovremmo fare? Piantare una foresta? Guarda, questa è una bellissima domanda, come tutti sapranno è una domanda che ha diverse risposte a secondo di chi se ne occupa, del genere di studio che viene fatto. Devo dirti che ho speso molto tempo a cercare di trovare proprio la risposta finale, volevo che i miei lettori avessero quei numeri fondamentali per poter decidere meglio con quale mezzo viaggiare, e è stato molto difficile e una risposta univoca non ce l'ho. Quello che però ho provato a fare è, con degli esperti che mi hanno aiutato, è simulare alcune possibili viaggi che, insomma, essero lo scenario classico di un viaggio europeo all'interno dell'Europa. Per esempio, ho fatto questo calcolo su 500 chilometri, una distanza che appunto uno può percorrere all'interno dell'Europa in un viaggio tutto sommato abbastanza breve. Eliminiamo quindi subito, diciamo, il viaggio intercontinentale, che ovviamente compiuto in macchina potrebbe essere, se non impossibile, estremo o molto problematico. Allora, quello che ho visto, appunto, sono viaggi di 500 km che, se viaggiate in auto da soli, potreste produrre sui 72 kg di CO2. Caspita. Molti di più rispetto al treno. Lo stesso viaggio compiuto in treno vi porterebbe a produrre sui 25 kg di CO2. E qui anche vedere se si viaggia con un'auto a metano, ibrida, diesel, benzina, già questo cambia moltissimo. Certo, beh, diciamo che facciamo una media. Questo è proprio, diciamo, un modello molto molto semplificato. E invece l'opzione scelta è quella dell'aeroplano, i chili prodotti sono 160, quindi molto di più del treno e dell'automobile. Qui anche qua andrebbero fatti un sacco di distinguo. L'aeroplano è pieno, è molto diverso rispetto a un viaggio compiuto con un aeroplano che parte semi vuoto. La stessa cosa vale per l'auto: se in auto vi trovate in quattro, allora il vostro apporto di 72 kg di CO2 va distribuito, certo. Quindi però l'aereo, ci confermi che rimane comunque il mezzo, tra virgolette, più inquinante? L'aereo rimane il mezzo più inquinante, sta molto migliorando da un punto di vista di consumi, migliorano i carburanti, migliora l'aerodinamica, migliora la gestione dei voli da parte delle compagniere. Bisogna tener conto che le stesse compagnie aeree hanno un grande interesse a ridurre i consumi, perché il consumo è il costo principale del volo, perché certo, anche loro interesse. Jacopo, per compensare questi 70-100 kg di CO2 che noi produciamo nel nostro viaggio, che cosa dovremmo fare? Cioè, dovremmo praticamente piantare un albero? Beh, un albero potrebbe essere decisamente troppo poco, nel senso che se fate questo viaggio da soli di 500 km in automobile, il calcolo che ho ottenuto è quello di dover piantare, insomma, un metro quadro di foresta. Anche qua però bisogna vedere quale tipo di albero, e poi non basterebbe piantarlo, bisognerebbe controllare che nei prossimi 20-30 anni l'albero cresca, perché non basta piantare una nuova foresta, ma bisogna seguire e controllare che questa produca. Se invece viaggiate in aereo, insomma, si tratta già di tre volte tanto, 3 metri quadri di foresta. Quindi un po' più di un albero. Sì, se viaggiate più volte all'anno in aereo, insomma, iniziano ad essere 3, 6, 9 metri quadri di foresta, insomma, l'impatto non è da poco. La scelta migliore quindi rimane sempre quella del treno, per cui, insomma, vi potreste accontentare di un bel mazzo di fiori o una piantina per la... Bravo, sì. Allora, insomma, questi numeri che ci dai ci fanno riflettere. Ovviamente non tutti potremo comprarci un appezzamento per ripiantare gli alberi, però, insomma, per le distanze, ad esempio continentali, il treno, insomma, è il mezzo da prediligere. Bisogna pensare che quello che si può fare, ormai esistono molti programmi per cui sostanzialmente potete compensare il viaggio e altri si occupano di piantare la foresta per voi, non è che vi è richiesto di piantare una foresta, non sarebbe neanche possibile. Certo. Senti, in conclusione, velocissimo, volevo dire qualcosa sui souvenir, perché tanta gente, insomma, porterà a casa qualche ricordo dalle mete esotiche che hanno visitato. Noi ci teniamo a dire che, appunto, i souvenir naturali, tra virgolette, sarebbe meglio lasciarli là, ecco, non portarseli a casa. Adesso la notizia recentissima, qualche settimana fa, lo svedese che è tornato con una valigia di sabbia, ecco, forse sarebbe da evitare. Ovviamente tutte le specie anche vive, assolutamente no, però tu, appunto, da geologo, cosa dici? Sarebbe meglio evitare rocce, conchiglie, sabbia? Rocce, conchiglie, sabbia, io, guarda, su quelle sarei forse anche un po' più indulgente, ma sicuramente non su oggetti di natura biologica, nel senso di animali o piante, o anche oggetti costruiti con animali o piante potrebbero essere vero. Mi conto che esiste una convenzione ormai del 75, la CITES, che stabilisce ben 30.000 specie che sono proibite, che non si possono esportare dal paese di origine. 30.000 specie sono tutto sommato tante, per cui è possibile che quell'oggettino di conchiglia o di tartaruga che magari è stato, come dire, intagliato nella conchiglia, voi non ci pensate neanche che possa essere un prodotto con un animale che era protetto. Certo, dentro c'era un paguro, esatto, una specie protetta. Esatto, e quindi bisogna fare molta molta attenzione, bisognerebbe informarsi molto prima su qua prodotti localmente vengono prodotti tuttora con delle specie rare e protette, e in quel caso assolutamente non si fa assolutamente del bene. Ma infatti, dai, lasciateli lì, casomai, se vi piacciono tornateci, eh? Cosa dici, Jacopo? Questo potrebbe essere... Disegnatele, fotografatele, fate quello che volete, ma non portatevele a casa. Ricordiamo il titolo del tuo libro, La scienza in valigia, appunto, che racconta tanti aneddoti e tante informazioni proprio scientifiche, sia sul viaggio, sul partire che sul tornare. Codice Edizioni, grazie Jacopo, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. Adesso le informazioni sul traffico, noi torniamo tra... Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È arrivato il momento che anche in Italia ci possa essere una rivista di matematica, ma rivolta al largo pubblico. Eh sì, finalmente, evviva! E tra l'altro che racconta tanti temi veramente vari, tocca veramente tutti i campi. La matematica va dappertutto. Ecco, poi in particolare per l'estate abbiamo degli articoli molto interessanti, ad esempio i capricci dei bimbi sotto l'ombrellone, ma anche la matematica del gossip, che è proprio l'argomento che vogliamo trattare questa sera. Allora, intanto diamo benvenuto al direttore del mensile Mate, matematica da zero a infinito, Luciano Regolo, benvenuto. Buonasera a tutti. Benvenuto direttore, salutiamo anche Alessandro Panconesi, buonasera. Buonasera, salve a tutti. Lei è ordinario del Dipartimento di Informatica alla Sapienza di Roma. Lei ha scritto la parte centrale di questo articolone sul gossip, o meglio sull'algoritmo che spiegherebbe la diffusione del gossip. Ma adesso ci arriviamo. Facciamo magari solo fare un'introduzione a Luciano Regolo sulla rivista, che a noi sembra una notizia fantastica che in Italia ci sia una rivista di divulgazione matematica. Sì. Devo dire che è un'avventura che ci sta dando molta soddisfazione, è anche un'impresa coraggiosa da parte della Centauro e la casa editrice, che però ha riscontro la matematica nella vita di tutti i giorni, ossia la matematica è veramente in ogni aspetto della vita, e questo è una necessità farlo comprendere anche nelle indicazioni della didattica mondiale, no? Ecco, noi parliamo, diciamo, sì, di matematica, ma parliamo di matematica appunto nella vita di tutti i giorni. Questo articolo centrale sul gossip, tra l'altro, mi è venuto anche da un'esperienza personale, perché nel mio passato ho diretto anche settimanali di celebrities, e molti dicevano: ma come passi dal gossip alla matematica? Ed eccolo qui. C'è continuità. C'è una stretta continuità. Ecco. No, questo è verissimo, nel senso che, vabbè, immaginiamo che il gossip, il pettegolezzo in tutte le sue forme, sia, diciamo, quello delle riviste rosa, quindi della cronaca rosa e così via, ma anche quello adesso sui social network, ha una diffusione che dire esponenziale è dire poco. E a questo proposito diamo la parola a Panconesi, che su esponenziali e algoritmi ci dice qualcosa. Avete lavorato alla Sapienza proprio su questo? Sì, se posso fare una piccola premessa. La premessa è che gli informatici che si occupano di algoritmi sono gente molto spiritosa, sono dei burloni, quindi cerchiamo di catturare in modo divertente invece delle problematiche che sono anche molto profonde, e questo, diciamo, rende il nostro lavoro più divertente. Tra questi problemi abbastanza parecchio studiati, diciamo, in algoritmi, c'è questo della diffusione del pettegolezzo, che però racchiude una problematica diciamo piuttosto fondamentale, che, se volete, posso provare brevemente provi. A raccontare. Diciamo che l'algoritmo del gossip è un algoritmo preesistente che è stato introdotto tanti anni fa, ed è un algoritmo molto semplice che, diciamo, imita il meccanismo con cui si diffonde appunto un pettegolezzo tramite un passaparola. Ora, questo algoritmo in informatica è molto utile, viene usato in tantissimi ambiti e quindi è stato molto studiato. Diciamo, nella nostra ricerca, con i miei collaboratori Flavio Chierichetti e Silvio Attanzi, abbiamo, diciamo, fatto un nuovo risultato che ha avuto un ottimo esito, che spiega qual è la proprietà delle reti all'interno del quale si diffonde l'informazione che consente la velocità di diffusione così alta. Ma perché voi date una misura di questa velocità in relazione al tempo? Assolutamente, diamo proprio un bound, diciamo una formula che è la migliore possibile e che spiega, diciamo, individua una caratteristica, diciamo, organizzativa delle reti sociali che, se presente, caratterizza in modo molto preciso la velocità con cui si diffonde l'informazione tramite questo pettegolezzo. Perché la velocità nel pettegolezzo è fondamentale, cioè un gossip che dura 6 anni non esiste, no? Quindi l'efficacia del gossip è misurata dalla velocità con cui si propaga. Beh, ci sono tante misure, chiaramente la velocità è la prima. Chiaramente ricordiamo che questo è un algoritmo che viene usato in informatica per diffondere informazioni all'interno delle reti, i calcolatori. Eh beh, certo, è molto usato. Quindi a questo punto, chiaramente, se questo è un meccanismo molto leggero e consente invece alla rete, diciamo, di scambiare messaggi in maniera estremamente efficiente. Ora però, se diciamo, la velocità di diffusione dipende da, diciamo, dalla struttura dei collegamenti della rete. Diciamo, se una rete, ad esempio, fosse lunga e sottile come un filo, un segnale per andare da sinistra a destra ci mette un tempo che è proporzionale alla lunghezza di questo filo. Quindi, diciamo, se una rete è fatta di 1 milione di elementi, uno di seguito all'altro, lì c'è poco da fare, il passaparola va un passetto alla volta da sinistra verso destra. E quindi l'algoritmo tiene conto in qualche modo del mezzo attraverso quale, della rete attraverso la quale il gossip si diffonde, quindi immagino, non so, appunto come dicevamo prima, le riviste di cronaca rosa sotto l'ombrellone, vabbè, sappiamo che corre velocemente il pettegolezzo soprattutto in questo periodo, però attraverso i social forse va ancora più veloce. Attraverso i social va come un razzo, questo sì, perché appunto, diciamo, l'aspetto, uno degli aspetti forse interessanti da un punto di vista vacanziero è che le reti sociali hanno questa proprietà che si chiama di alta conduttanza, che consente appunto alla velocità, all'informazione di andare, di diffondersi molto velocemente. E un'altra cosa che forse può essere detta è che si tratta di informazione in senso molto generale, quindi potrebbe essere un'informazione oppure un agente patogeno oppure un virus informatico, eccetera. Diciamo, questo algoritmo in qualche modo è un modellino semplificato di come si diffonde un agente patogeno, un pettegolezzo. E allora, attraverso appunto questi calcoli abbiamo capito che, no, forse non ci stupisce, questa è una curiosità, che le VIP, insomma, più copertinate, così viene da dire, sono certamente Lady Diana, la Hunziker, la Belen e così via. Però, direttore, mi sembra che anche i matematici in qualche modo abbiano dato a loro modo scandalo, cioè avete dedicato un articolo con appunto un po' di aneddoti sui matematici invece che hanno fatto chiacchierare. Era un po' un divertissement, come diceva giustamente, ed è una carrellata, sarebbe lunghissima, noi abbiamo citato i casi più eclatanti, perché si va da Saletto, che era un allievo di Pitagora, il quale aveva fatto delle leggi durissime a Crotone contro l'adulterio, poi fu beccato a letto con la cognata e quindi per coerenza si suicidò. Fino a quindi poi saltiamo invece all'epoca più contemporanea, per esempio questo ricercatore Jan Hendrik Schön, che aveva vinto, diciamo, un sacco di riconoscimenti, di premi, eccetera, poi fu scoperto che copiava anche le dimostrazioni, eccetera, e quindi furono revocati tutti quanti e questo fece moltissimo scalpore. Quindi sono esempi in cui diciamo, il matematico dà scandalo. E a proposito di questo, invece, una celebrità molto fresca, diciamo contemporanea, è quella che ha portato a galla il Daily Mail, che è questo italiano, professor Boselli, matematico alla University College di London, Londra, diciamo, che appunto è anche modello per Armani. Quindi sì, ha lasciato, infatti, mi dispiace che le ascoltatrici e gli ascoltatori non possano vederlo, è veramente un bel ragazzo. E questo ha fatto molto, diciamo, gossip sui giornali di gossip. Va bene, allora intanto vi ringraziamo per questo viaggio nella matematica così un po' inusuale, ma che a noi piace raccontare, quindi grazie Panconesi, grazie Regolo. Allora noi vi ricordiamo, se vi va di leggere qualcosa sotto l'ombrellone così un po' diverso dal solito, vi ricordiamo Mate, matematica da zero a infinito. Grazie, buona serata. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti. Arrivederci. Psicanalisi e cinema, se ne parlerà al Festival della Mente di Sarzana, che sarà il 2 e il 3 il prossimo weekend. Il prossimo weekend, 2 e 3 di settembre, in particolare il 3 di settembre, ma poi saremo più precisi. Abbiamo qui con noi questa sera Paolo Boccara. Buonasera Boccara. Buonasera. Psichiatra e psicanalista, e lei insieme a Paola Carbone e Giuseppe Riefolo terrete questa conferenza sul tema, appunto, sulle relazioni possibili tra cinema e psicanalisi. Beh, intanto dobbiamo subito precisare, ci siamo sentiti prima di questa intervista, che non stiamo per introdurre una nuova categoria di psicanalisti, ci sono gli junghiani, i freudiani e gli hollywoodiani. È uno degli strumenti che utilizzate, certo, non è uno strumento fondamentale. Beh, il titolo dell'incontro forse rende l'idea, l'analista al cinema, pensare per immagini. Ecco, esatto, un po'. Esatto. Allora, la stanza dell'analisi è quello che voi definite appunto il momento in cui fate terapia psicanalitica, però poi c'è anche la grande stanzona del cinema. Sono due momenti nei quali comunque la narrazione di una cosa o di tante cose è al centro, insomma, di chi la vede, di chi la pratica. Sì, diciamo che appunto il rapporto tra psicanalisi e cinema è iniziato con la nascita sia della psicanalisi che del cinema, che è praticamente lo stesso periodo. Certo. Quindi se ne è parlato tantissimo e si è parlato anche di un certo modo di intendere appunto il cinema dal punto di vista psicanalitico. In realtà noi non neghiamo tutto questo, ma proponiamo un parallelo, nel senso che come ci succede a tutti noi spettatori che andiamo al cinema di vedere alcune scene di alcuni film che ci colpiscono particolarmente, ci colpiscono emotivamente oltre che diciamo cognitivamente, il cinema ci aiuta a conoscere delle parti di noi, anche magari sconosciute o che non conosciamo da un bel po' di tempo. E questo ha la possibilità di essere per noi un momento di scoperta, di conoscenza e di possibilità di raccontarci cose di noi diversamente da prima di entrare nella sala cinematografica. Quindi può avere un effetto significativo, insomma, questo significativo, quello che lei ci sta dicendo. E questa è un'esperienza di tutti noi che andiamo al cinema, tant'è vero che alcuni film ci sembrano, siamo affezionati ad alcuni film come se fossero delle persone, perché in fondo ci hanno detto alcune cose di noi e ci hanno anche aiutato a capire alcuni passaggi della nostra vita. Proprio a questo proposito, il paziente utilizza ad esempio alcune scene di film, storie. Questo succede perché il cinema è una arte ormai popolare, anche attraverso tutto quello che è accaduto, insomma anche attraverso la televisione, molto spesso accade questo. Quello che vorremmo, come dire, proporre a Sarzana è che un certo modo di intendere la psicanalisi, contemporanea, fa un'operazione simile a quella che ci succede come spettatori al cinema, cioè ascoltare, diciamo, un paziente che racconta determinate cose della sua vita attraverso un sogno, un ricordo, un sintomo, un racconto anche drammatico, permette ad analista e paziente di attivare un pensiero su delle parti non conosciute o meno conosciute del paziente, a volte anche dell'analista, che attivano una conoscenza maggiore e attivano anche, attraverso le emozioni, delle parti non consapevoli che possono essere messe in comune con le altre più conosciute. Quindi viceversa anche l'analista può utilizzarlo, certamente. Quando succede che analista e paziente riescono ad avere un incontro intimo su qualcosa di comune, è sicuramente un elemento molto utile. Cioè, nel momento in cui si verifica una contemporaneità tra una scena vista dallo psicanalista e quella del paziente, c'è un livello di conoscenza che scatta maggiore da parte vostra della situazione. Esatto, c'è una conoscenza maggiore, ma diciamo c'è la possibilità di vedere in quel momento attraverso la mente qualcosa in comune, diciamo. Oltre al racconto della scena, proprio si crea all'interno di una situazione analitica qualcosa di cui il paziente diventa il regista e l'analista diventa lo spettatore, e a quel punto si ricompone quello che succede in una sala cinematografica. Sì. Paolo Boccara, grazie, il tema è veramente intrigante, strano. Sì, e senza toccare, diciamo, tutta l'altra parte, cioè il cinema, quanto ha raccontato invece di sedute psicanalitiche e così partendo da Woody Allen fino al nostro Verdone, Margherita Bu, insomma. Come ogni, diciamo, arte popolare ha raccontato delle cose molto pungenti rispetto alla psicanalisi e forse ha colto dei punti che gli stessi psicanalisti hanno difficoltà ad ammettere. Grazie Boccara. Allora, ricordiamo l'appuntamento il 3 di settembre alle ore 15 al Festival della Mente di Sarzana presso il Cinema Moderno. Certo che senza psicanalisi Woody Allen sarebbe un calzolaio. Sì. Devo dire proprio di sì. Cartolaio. Però non solo lui, devo non dire che tanti hanno tratto ispirazione dalla psicanalisi. Per questo oggi è tutto. Era tutto. Noi ci sentiamo tra 7 giorni. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao.